avanti, antioperatore Barracuda. Attenzione Antonello Barracuda, ci sei? Probabilmente è macchina, è zona d'ombra. Ho sentito un attimo e poi è modulato tu e non lo so, vabbè, rientrerà, busserà di nuovo. Oh, Carlo, mi senti? Di Natalino. Capa, sto usando il 3009 che mi ho cambiato la lampadina ieri, che mi si è bruciata, e gli ho messo un LED, uno spettacolo è adesso, un LED con la resistenza gli ho messo, bianco. CRT? Il 3009 Superstar. Ho capito, sì. Anzi, che era la lampadina classica a LED. Beh, Natalino, ma intanto di segnale da te, Carlo. Natalino da me era sempre forte di segnale, però ha migliorato molto di radio. Da me arriva 4T adesso già. Va bene, gli sta andando bene. 9 più 20 arriva, con 20 watt. No, io sto usando il coso, il 3009 adesso, qua, perché non mi stava funzionando, perché c'avevo un, come si chiama, uno spezzone in corso, e allora gliel'ho cambiato e adesso funziona. Aspetta, allora tu sei col 3009 con quanti watt, Natali? 4, 4 e mezzo ne darà, penso, non l'ho manco guardato quant'è. Perché con l'antenna diretta non gli ho messo neanche il rosmetro, capito, per vedere. Ma ce l'ha anche questo, dovrei guardarlo. Prova tu Gianni. Io sono con 2 watt Claudio. E vabbè, da 2 a 4 diciamo, non dammi Gianni. La modulazione è molto più forte quella di Natalino, il segnale ce l'ha detto uguale. Tieni conto che tu sei molto più avanti e molto più vicino a me. Segnale uguale, Santiago 9 tutte e due, però la radio quella di Natalino è un po' più forte, vero Carlo? Esatto, sì, infatti gliel'ho detto a Gianni che il segnale non cambia niente, perché a me mi arrivava sempre fondo scala Natalino, ma la radio è cambiata notevolmente. Sì, evidentemente quello di Natalino non spinge di più di radio, non lo so. La radio è più alta quella di Natalino, ma te l'avevo già detto Gianni. Come segnali siete uguali, S9, però tieni conto che tu c'è una posizione superiore a quella di Natalino, quindi. Io adesso sto usando la stazione base Intec con 2 watt, Claudio, lo sto usando il 3009. Ecco già, non cambia nulla, io sto parlando di watt, tu ne hai 2 e lui ne ha 4, non cambia niente, da 2 watt a 4 watt non cambia niente, siete tutti e due S9. Ah no, pensavo che stessi pensando che io stavo usando, perché ieri ci avevo l'altro, adesso sto usando la stazione base, dai, per farlo girare un po' tutti. Ehi, fammi girare, metti la testa a terra e girano da sole, avete tutti e due lo stesso segnale a parità di potenza, da 2 a 4 watt non cambia niente, manco si vede la differenza. Natalino ha implementato qua la Santiago 9 più 20, infatti un mondo. Scappa. Ah, Tatarina, sei contento, adesso già te la godi quella radio. Almeno posso ascoltare in lungo e in largo. Adesso sto usando l'MB più 4 questo e col 3009, col Superstar 3009, capito? Natali! Oh, dimmi! E come stazionario quanto ti dà? 0, in tutti i canali, ho provato anche nei canali di sopra, nulla. Lo so anche com'era così, tu ci muovi in maculago. Sono belle quelle antenne per quello, prendono poco QRM, pompano forte, l'unica cosa che c'hanno è sempre il problema della stabilità esterna, diciamo. Ma se l'hai rinforzata, sta tranquillo che non ti succede più. No, io l'ho messa come deve essere messa, me l'avevo già segnata. Ho messo le misure che devono essere messe e buh, ma giù va a tassero, capito? Gli ho lasciato i 2 centimetri che dicevano di coso per non essere troppo in tira. Ma la tua è perché è esposta, era troppo esposta al vento. Non ti ricordo cosa ha fatto la mandorla, quella è una tendina più riparata, se no è un'ottima antenna. Nessuno dice che non è un'antenna buona, però secondo dove la piatti non ce la fa il vento, non ce la fa, la piega troppo. La mia si pigiava come quando prendi un delfino. Si piegava un bel, infatti me ne sono andato anche a campare, l'ho preso, guardi che c'è l'antenna che si sta quasi spezzando, che sta piegando troppo, e per il no, ho detto no, quelle antenne sono fatte apposta, resistono un vento di 160 km orari con la valla, così c'è scritto. Sta pindacciando, ma no, già lì non ce n'è di 160 e 180, lo prendi in pieno, ma non ti ricordi che ci ha piegato il tubo della mandorla, non te la metti in più, un tubo in alluminio, ma arriva facciamo un valore dente, è troppo. Io ho visto quella di Sandro, io quando l'ha piazzata benissimo, l'ha spezzata in due, proprio spezzata in due, non piegata, l'ha rotta in due, l'ha spezzata in due. Cava. Vabbè, dai. Io adesso telefono di nuovo al veterinario, un attimino, perché ho problemi con Taiso, cioè, ha odorato l'erba ed è entrato fuori a sacchi, sicuramente la naso, sta sempre stando un tempo. Mamma mia, mi ha rotto di balle, cazzo. Non lo fare andare dove c'è l'erba alta. Sì, non lo fare andare, io tirando da una parte e lui tirando dall'altra, perché sentiva l'odore di qualche cane che aveva fatto la pipì, è andato a odorare e ha cominciato a starnutire, però sangue non ne sta uscendo, solitamente riesce il sangue quando c'è fuori a sacco. Adesso chiamo di nuovo il veterinario, vediamo un pochettino cosa mi dice. Mamma mia, rottura di balle. Fuori a sacco è una grande rottura di balle. Ha dovuto operare al naso il mio genero al cane, hai capito? Ha dovuto aprire il naso perché non riuscivano a toglierglielo. Una rottura di balle, siamo questi cazzi qua lasciati. Ma li ho presi a chi non ha daglia ne debba, così, questa gente del comune. Oh, ya, Claudio, se no quando va vi ruba solo il tedesco, ni la recci, ni runasi, ni un gnarugo, sempre dal veterinario quando va via lo goso, lo bastone tedesco, uno o due ne pigliava e si vorassacchi, mamma mia. Io ce li ho esternamente ce li ho, però una mattinata gli ho fatto via carburita, sono entrato invece sfogliatore, prima a cordicella, poi a disco, ho raso al suolo tutto, capito, non ce n'è più, perché avevo paura che volassero dentro il prato, e Filippo è sempre lì buttato, capito, per quello lo tengo pulito fuori, per il cane, non per me, no, a me non me la fotti nulla, non ci andò a lungo, però a volte la bambina Mario lo porta fuori a passeggiare, sino a giù, alla vallata e tutto bene in Volassacchi, e infatti adesso non lo porta più. Vai Garletto, dove lo metto? Oggi sono tutta la sera attaccata alla radio, dai, perché ero di giornata libera e quindi ho avuto più tempo. Comunque, già va bene questa antenna. Claudio Di Muro, ho sentito che ero da almeno un mese che non lo sentivo, però era in precarie condizioni, mi ha detto, radio, poi ha attaccato l'altra radio, è rientrato e lo sentiva anche Natalino e Antonio, anche Gianni, Marco, sì, Marco lo sentiva anche da prima, però ha attaccato l'altra radio più potente come watt, perché prima stavo uscendo con una radio con 4 watt e mezzo, c'ha un'antenna che non è molto performante, per cui se non gli dà watt non va lontano neanche lui, capito, Cla? No, non l'ho sentito, sono attaccato, non lo sento. Mi sono allontanato, ero fuori e stavo annaffiando, adesso già bisogna iniziare a annaffiare, però se no perché i rigatori, se no si è caduto, poi stavo annaffiando, che ho messo dei tronchetti ai fianchi da fare ad albero, capito? E quindi stavo annaffiando. Vabbè, dai, intanto non mi trattengo, sono già le 8 che inizio a dare fuoco. Ciao Cattalì, ciao anche Gianni, ciao a te Carlo e chiunque fosse in ascolto. Per me QRT, ci sentiamo domani, ciao. Ciao Claudio, buona carica quando la fai. Ciao Claudio, ciao, buona cena, buon tutto quando la fai, alle prossime. cane ti ha chiamato il veterinario? La linea occupata, c'è la linea occupata, ho provato a chiamarlo io, sicuramente sta facendo qualche intervento, qualche cosa, perché quando c'è la linea occupata così è perché sta facendo adesso, mi sa che mi vesto e vado glielo porto direttamente. Buono. Lo porti? Fracassi. E dov'è? Vicino a casa tua? Sì, rimane, come spiegatelo, hai visto dove c'è la Conad su al monte? Non so se sei pratico per andare lì a San Francesco, c'è la Conad, quella traversa prima. Sì, già la conosco bene quella zona, ho capito pure dov'è, adesso me lo sono ricordato perché a volte ci arrivo in bicicletta, tutte quelle zone me le faccio ogni tanto, tutta la zona di San Francesco eccetera, quindi ho capito dove la Conad. Cavagala. Conviene portarlo allora, perché magari l'ora è tarda, se no poi ti chiude e te lo devi tenere tutta la sera così. Infatti adesso va, ci sentiamo, buona serata. Ciao Gianni, da Natalia anche io faccio quei ritiri, rimango in ascolto ma sto preparando. Oh signore. Chi è? Avanti. Avanti. Aspetto 10, CQ canale 10, Sale canale 10, Ola, CQ 10, Ola, fotografia che ti ho mandato. Ma quale piazzata, sempre così? Con chi l'hai piazzata? Con Franco, poi c'era un altro amico e con Cesare che era al secondo piano, ma avevo un guaraduno e poi sull'altra. E sono tre le antenne lì che sono. Cazzo, una fatica oggi, mamma mia. Comunque esce un bel tetto. Ehi, l'hai visto com'è? No, aspetta. Oh, vita, mandamela la foto. L'ha fatta un amico mio, aspetta che te la mando. Copriamo subito, chiediamo al mio numero 8 Nicola da Torino, 54 anni, che è la nonna, non si voleva dire. Scusi, è caduto. Aspetta, Grazie anche a te. E che va, beccate questa. Un detto dell'altro, quindi la nonna diceva anche il signore. Uscita è. Va bene, la voglia, più alta la voglia. Con disturbi no? No, non penso no. Con quella lì cosa disturbi, non parla di ali né niente. Io quando ti arrivo, guarda un po' il segnale mio com'è, fondo scala, tu arrivi sul 3, sei in mezzo, tra le 3 e lo 0, dai. Sì, fondo scala, dai. E poi magari lo ero anche prima a fondo scala. Adesso il problema è che non te lo posso dare con questo perché ho messo mano allo Smitter, però mi serve uno che mi arrivi almeno a Santiago Nove nell'altro e poi lo regolo. Vabbè, accendo l'altro. Luca, prova 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova 9.45 sta arrivando. No, guarda adesso 9.50, ci arrivo, guarda un po'. Fondo scala, 9.60. Ho detto che devi correre tanti. Fai tu con questo che sei più alto, provo. Sono con 5 watt però, Sì, sul 3 sei comunque, dai. Va a picchiare in mezzo, tra 3 e lo 0, nel più 30. Ecco, a Franco di Sorso. verso, gli arrivavo a Santiago, sì. L'ho provato stasera a Santiago 9, da 6 a 9 beh, un bel po' di differenza. Se ne è abitato subito. Ma qui sarai il capo com'era, che ti avevo mandato la foto. Ovviamente la nostra. E la calza pure era così, l'abbiamo pulita. Però era tutto così, sia il positivo che il negativo di quel capo. Guarda la foto. Sì, l'ho vista, è nera. Hai visto quanto è, già c'è un giampa. Beh, ti credo. No, io il capo l'ho lasciato il mio, a posto. Questa storia non ne ho. Questa persona si è aggancata. Vabbè, adesso mi sa che si aggancio a uno e... 1.3, dai. È accettabile, io non ne ho nulla. Né qua, né canale di sopra, ma così muovi. Va benissimo quell'antenna. Avete piazzata bene, sì? Non l'hai visto come ti è piazzata. No, Rico, le misure. Ehi, e beh, era già segnata, l'avevo già segnata, ma l'avevo misurata col metro e tutto. Ma che non l'avete piazzata a punta di gatto? Tutto il manzano era me. Ti sto dicendo, cioè avevo la schiena a pezzi. Dopo pranzo. Mi sono coricato perché qua non ne brio più. Vabbè, dai, comunque è risolta, almeno la cosa in più è fatta, che tu ce la porto con l'antenna adesso. Ecco, poi me sono andata lì. VG213, quello Messi e Paloni. Ho messo. Perché quello ci voleva buttare. C'è cose che se non lo vulcanizzi bene, se non lasci bene, entra acqua, poi si ossida. Già lo so, il PL mi si è rotto, ne è uscita la ghiera, era verde il PL, figurati. Comunque pensate che è risolto, dai, almeno si è a posto la tariffa qualche anno. Io ho messo tutto vulcanizzato bene, tutto a posto, tutto nuovo. E poi Santa non ha più mai. No, che la Bisanzia che viene su altri due a attaccarli, se hai notato bene. E tu fai sempre si è attaccata la gatta dalla piazza dalla Azul, mi è rimasta dalla Yosu, questo l'ho fatto io, capito? La mantova è molto più pesante di quella. Già lo so, ma è il palo che è un bel pesante. La scala come avete fatto? Ce l'avevi la scala lunga? Come? Ce l'avevi la scala lunga, ha detto. È lunga, per modo di dire. Lo sapevo quanti la lunga c'è a scala. Aspetta un attimo. Comunque sono contento, va, almeno ricevo bene e trasmetto bene. Ricevevo anche la propagazione stasera. Sentivo la propagazione. E prima Nisba, guardi URM a 7 prima. E se tu arrivi meno di 7 non ti sentivo. È normale che cambia. Prima avevi problemi. Pensate che l'hai vulcanizzata bene. Il nastro vulcanizzante mi mancava, mi ha già regalato un rotolo nuovo sigillato a una bassona. Che il dito. C'è manzano. Ho capito, bene, bene. Ma così muovi, è stazionaria. È nata lì, quando c'è la te l'ha messa bene, così. Infatti. E sono andato lì quando ci sarà la propagazione. A fare delle prove, ma tanto io, se collegamenti non li divorzo, non divorzo, se vuoi io su io. Capito? Una certa ora sono giù e rientro alle 8:30 a casa. Poi venerdì, sabato e domenica non mi sovo, su Budaletta. Infatti è un macello. No. Sì, vabbè, tanto col caldo anche in AM mi puoi fare i collegamenti. Ma io non mi sovo, capito? Chi sono? Non ci sono. È un casino, e vabbè. Stato giù, lo faceva a te l'antenna. Dove era lì? Era meglio se stava sul tetto. Era meglio. Vabbè. Comunque. Adesso questa qua. La mantova penso che faccia. Adesso. Fai 10 anni. pulita, è andata bene, ho messo la fascia in acciaio, 10, 15, 2. E infatti, sicuramente andava bene. Quando è fatto bene il lavoro dura l'antenna. Ah, hai usato 60? Perché si nota? Mi arrabbi, perché avete un attalino di sopra? Grazie di essere. Le cose belle. Comunque, che punto siete con gli studi? Studiando stavo fino a ieri. Non può essere difficile. Su 10 ne ho sbagliato una. Di quiz. Quelli me li ho fatti via internet. Ma è difficile? È difficile, non è facile, Lu. Bisogna studiare, se non studi no, non ne capi bene. Lo so. E chi non la gana è poca. E vabbè, tanto lo fanno solo quest'anno, anche il prossimo anno. Ogni anno lo fanno. No, dico, dove state andando voi? Penso che lo facciano anche il prossimo anno. Intanto penso non naccio. Ma sono impegni, contro impegni, Natalì. È un casino, non fa. Lo so, anche se è un'ora, però non fa. Ma ci proviamo il prossimo anno. Se non ce la fate mai, qualcuno di voi non ci è promosso, ci andrò con qualcuno di voi. Ma io provo di riuscire a promossi. Infatti, ma sta usando il 3009? No, solo quello. Guarda, a parte il Typhoon che conservato, il Mobico. Sì, 3009. Ok. E allora bombolino da rimattersi in volo. Canto che bombolino ci sei. Non si è fatto più sentire. Stasera c'era dal QTH a lavoro. Ho capito. Qual è la cosa? Sono un disastro e mi rimasto. E chi è se? Ho un gruppo. Vabbè là, vado, chi ore sono? Allora, mi controllo la luce mia, mi faccio l'iniezione e mi curi. Ciao Natali, buonanotte, sotto la concetta, ciao. Anch'io faccio la televisione, ciao. Ciao Luca, ricambiato la concetta.